Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Quando si dice se ti abbraccio non aver paura, viene subito in mente il nome di Fulvio Hervas. Perché? Perché è stato un romanzo di un successo straordinario. In Italia ha venduto più di 300.000 copie. Forse lo ricorderete, era la storia di quel papà che con il figlio autistico decidevano di fare un viaggio negli Stati Uniti. Fulvio Hervas ha pubblicato un nuovo libro che si intitola Tu non tacere, pubblicato sempre dalla Marcos y Marcos. Anche in questo caso si prende spunto, ma solamente spunto, da un fatto reale, e poi, come a volte succede nella vita, i cortocircuiti della vita, la realtà ha preso il sopravvento sulla narrazione, e ora vi spieghiamo in che modo. Allora Fulvio, tu in questo romanzo racconti la storia di un ragazzo, Lorenzo, è uno studente di medicina che cerca sostanzialmente di capire, di ricostruire se c'è stato un caso di mala sanità nella morte di suo padre, che aveva avuto un incidente automobilistico. In questo poi verrà aiutato da alcune persone e lo vedremo nel corso dell'intervista. Dicevamo, tu ti sei ispirato a una storia vera, certo. Anche in questo caso. Di chi è la storia? Allora, la storia di una famiglia esattamente come narrata qui, e quindi c'era un figlio grande nella famiglia, anche lì con molto contrasto rispetto alla famiglia, che decide, perché anche lì gli girano le cose in testa, che gli esiti, no, toccati al padre non fossero soltanto collegabili all'incidente, ma c'era stato qualcosa che non aveva funzionato. E quindi viene veramente eroso dal dubbio, no? C'è il bisogno di dire, insomma, di scrivere una parola chiara su cosa è accaduto, no? Poi un limo usato, avere chiarezza, perché tanto sì, purtroppo la realtà non poteva cambiarla. Quindi un fatto di giustizia, ma un fatto di rispetto, un fatto di amore, di tante, anche di rapporto con sé, non bisogna problemi di sapere, perché credo sia un bisogno umano, certo. Importante sapere, no? È andata così, punto. Lorenzo, un po' che è il protagonista, un po' tanti studenti che ho avuto, no? A cui ho voluto veramente bene. Ricordiamo che tu sei insegnante. Sono insegnante, ancora insegnante. Di chimica e biologia, giusto? Chimica e biologia. Alle scuole superiori. Sì, in un liceo. E quindi quando ci sono, insomma, nelle classi sono degli studenti che ti spingono a fare bene il tuo lavoro. Sono proprio queste relazioni, il fatto che ti senti utile, che ti stimano, che ti provano, eccetera. Allora ci sono tanti Lorenzo nella mia carriera, insomma, nella mia vita scolastica, e uno in particolare è stato un ragazzo che qualche anno fa, forse 2 anni fa, uno a cui ho voluto molto bene, mi viene e mi dice, questa cosa mi ha molto colpito, mio papà non c'è più, no? Ed era un uomo che avevo conosciuto durante i famosi colloqui, no? Che era molto più giovane di me, dice, sì, eravamo in spiaggia, si è alzato ed è caduto. E questa cosa qui, sai, questa cosa qui che avevo bisogno di raccontarla, di dirla. Quindi Lorenzo diventa uno, no? È quel Lorenzo che ha avuto una perdita importante, no? E quindi è quel Lorenzo che... Che sete di giustizia, dicevamo, sì, vuole capire, insomma, che affronta, che cosa anche questo, che è una bufera, perché la morte di un padre è una bufera, un padre giovane, un padre forte, un padre che è importante dal punto di vista economico della famiglia, insomma, che è il perno, il baricentro gravitazionale della... Ecco, in questa sua ricerca di verità, di giustizia, ci sono forse due fronti diversi, nel senso che la madre di Lorenzo è quella che non ne vuole sapere, cioè non vuole neanche ricordare, giustamente, insomma, il momento dell'incidente stradale, e non vuole sapere. E così invece Lorenzo trova un alleato nel suo professore di scienze del liceo, che sei tu nel libro sostanzialmente, insomma, rivisto e riproposto. Allora, io volevo in realtà fare un po' con una figura che un po' conosco, chiaramente quella di insegnante, fare da spalla a Lorenzo, no? Quindi volevo in realtà, come sempre, un po' nascondermi. Sono uno che difficilmente fa fatica a scrivere in prima persona, ad esporsi, no? Poi invece la vita un po' mi ha stanato, ma poi insomma mi serviva, cioè, qualcuno che rappresentasse una figura di adulto mancante, no? E che fosse una figura che da un lato ha un'esperienza del corpo, perché è un libro che parla anche di corpo, naturalmente di educazione del corpo, no? Che fosse uno che aveva avuto un rapporto conflittuale ma forte con Lorenzo, fosse un punto di riferimento, e fosse anche un punto di riferimento, che avesse bisogno in questo tourbillon. Chiaro che la mamma, come è accaduto nella realtà, la mamma invece aveva un atteggiamento diverso, un po' per quello che era successo durante l'incidente, ma un po' perché è quel senso pratico che spesso che io ho, insomma, che veramente rispetto e che è importante alle donne, che era quella di trascinare la famiglia sull'altra riva, perché era anche quella che si rendeva conto che insistere sul passato e quindi su quello che è accaduto fosse nella sua lettura dell'Eterio, era convinta che l'idea di Lorenzo fosse quella di tornare indietro. Di tornare indietro. Di tornare invece, sulla deriva, no? Invece Lorenzo vuole appunto capire, diciamo, trova un punto forte di riferimento, cioè, in questo professore, che poi lo aiuterà a mettersi in contatto con questo trio di donne. Mi ha fatto molto ridere come le chiamate, il TNT, mi è venuto il gruppo TNT, mi è venuto in mente la mia memoria, insomma, esattamente, anche i cartoni animati, ricordo ancora la sigla, che è insomma un gruppo di donne che segue anche dal punto di vista legale le vittime della mala sanità. Sono molto belle anche le parti in cui Lorenzo si rivolge ai medici, no? E chiede: ma cosa è successo? Ma aveva già la spina dorsale rotta? Ma cosa? Ci sono certi medici che danno delle risposte allucinanti, ad esempio quando lui deve aspettare del tempo per entrare in possesso della cartella medica di suo padre. Cioè, ecco, in questi casi un di... po' accade. Ecco, quello accade. Ed è un problema sentito. Però è chiaro che quindi la trasparenza, la velocità, l'accesso, libero accesso alle tue cartelle cliniche, a volte insomma un po' macchinoso, alle volte quando c'è come in questo caso un inghippo, il sistema un po' resiste. È un po' un muro di gomma, sì, in alcuni punti sembra che ci sia proprio un muro di gomma, non perché ci sia chissà quale macchinazione, ma è chiaro che il singolo cittadino fa onestamente la fatica, perché lì poi siamo il piccolo col molto grande, cioè se tu hai un caso in cui c'è un errore medico importante, da solo veramente fai molta fatica. Quindi insomma io ho giocato su questa, non solo questo, che è un ruolo professionale che esiste, non ho solo copiato la realtà. Sia diciamo l'aspetto di indagine fra virgolette, cercare di capire, non diciamo poi se arriveranno alla verità o meno, e sia soprattutto il peso emotivo che vive questo ragazzo e i suoi familiari, naturalmente. Dicevo all'inizio che a volte poi la realtà si intreccia così tanto con la fiction che nel tuo caso è stata quasi deflagrante questa realtà, perché tu stavi scrivendo questo romanzo in cui raccontavi la storia di Lorenzo, un ragazzo che cerca di capire se c'è stato un errore di malasanità sul padre che è morto, e in quel momento accadono a te due cose molto forti, una tua madre e una tua moglie. Ce le vuoi raccontare? Allora, il mese di novembre, però dico prima la cosa positiva: il mese di novembre mia figlia rimane incinta e quindi diventerò nonno, sono felicissimo. Però tutto nel mese di novembre tre persone che mi sono più care, quindi mia madre, mia moglie e mia figlia, hanno qualcosa insomma che trasforma il loro corpo. Mia mamma, ahimè, c'è una diagnosi molto tardiva di un'endocardite, quando viene insomma diagnosticata i guai sono combinati. E poi invece da lì in poi, quando scoprono, c'è molta, molta abilità. Cioè, i medici non avevano capito che avesse un'endocardite, insomma. È una bronchitina che è stata, dopo 9 giorni e mezzo, aveva fatto purtroppo il suo lavoro. E mentre vado in ospedale da mia mamma, mi telefono dicendo, una collega di mia moglie: vieni, corri, perché tua moglie insomma è cosciente, ma ha avuto un incidente, quindi io naturalmente vieni correndo piano. Io naturalmente ho corso Superman, Nebo Kid, tutti messi insieme, stessa macchina, avevamo entrato in macchina. Perché era stata investita sulle strisce pedonali. I soliti distratti killer che pensano che i pedoni sono un optional, che non devono mai attraversare. Cioè, quindi anche lì insomma una situazione medica sanitaria fortissima pesante. E lì invece ho visto da subito, no, là che c'erano, cioè incredibile come tu percepisci, quando ho visto come la prima fase di attenzione su mia madre, ho detto: qui c'è qualcosa, non hai bisogno di una laurea in medicina. Si capisce istintivamente, basta un minimo di sapere cos'è l'idrogeno, l'elio, due formule, ma semplici di chimica, capisci. Quando invece mi chiamano dentro al pronto soccorso e vedo il cardiologo che le sta dietro, che ringrazierò sempre, e tu vedi che ci sono. E quando ci sono, e vedi la presenza, l'empatia, la partecipazione, il sudore con te. Sì, perché tu l'hai detto spesso, questo non è un romanzo sulla malasanità, eccetera, è una storia, chiaramente. È un evento che racconta corpo, sanità, macrosistemi, no? In cui poi tu ti sei trovato a vivere. Ecco, che effetto ti ha fatto avere questa eco, come dire, anche fisica della vita che tu stavi vivendo? Ecco, racconti una storia così, banalmente uno dice: mi sono portato sfiga e mi sta succedendo, però al di là di questa battuta stupida, no, come l'hai vissuta questa cosa? Allora, ti succede proprio questo, credo che se fossi stato un po' meno laico, chiaro che vai in tilt, no? Io per un mese abbondante decido, se fosse stato un manoscritto l'avrei bruciato. Poi naturalmente schiacciare un bottone e cancellare invece un file è una cosa che perché diventa irreversibile, dice madonna mia. No. E allora io per circa 40 giorni, 5 giorni non voglio saperne. Poi anche la forza della scrittura, insomma, poi io decido, no, di aprire il computer e di tornare a un certo punto del libro e scrivo esattamente come lì, poi abbiamo corretto sulle virgole, io che racconto il fatto che vado al pronto soccorso. Come l'ho vissuta ed è venuta lì così, no? E la cosa incredibile è che a un certo punto io che sono in qualche modo una persona in qualche modo vera, ma nel libro sono il professore, ma sono io, e c'è un Lorenzo che non esiste, che dice al, che è un personaggio che dice a me che sono vero, che mi dice, io gli chiedo ma cosa succede a mia moglie, come andrà a finire, come a tuo padre, perché ho questa preoccupazione, e lui che non esiste dice no, io sento, lui che non esiste dice a me che esisto, io sento che a te invece andrà bene, che lei si salverà. E l'ho scritta così perché mi è venuta come se, se avessi dialogato invisibilmente con una parte di me, con una proiezione di qualche tipo, e in effetti insomma, mia moglie Paola insomma, ha avuto un grosso inghippo perché è stato un... Però ora sta bene. Però adesso sta bene e sta recuperando. Sta bene e sta recuperando. Ecco, il fatto di aver vissuto poi personalmente anche alcune sensazioni, la rabbia nel caso di tua mamma appunto per una diagnosi sbagliata, la sofferenza nel caso di tua moglie nonostante la solidarietà dei medici, la bravura, ti ha fatto, come dire, dare una rispolverata ai personaggi che avevi già definito o sono rimasti un po' quelli lì? No, allora, poi sai, quando hai tanto hai una lente diversa, quindi una sensibilità diversa. Allora io quando parlo, anche in questo libro, del medico, no? Non sto parlando di una giusta, con tuo rispetto, di una giusta viti, di una giusta rubinetti. No? Io ho la chiara coscienza che è gente che fa un lavoro complicatissimo, che io non so fare, che non saprei fare. Quindi ho un rapporto con gente che è una scala di importanza che non sottostimo. No? Non di meno succedono le cose su cui bisogna responsabilmente prendere posizione, assumersi la responsabilità, capire che può accadere, che accadono e possono accadere, su cui bisogna in qualche modo non tacere ma anche pensare, cioè, bisogna essere non opachi su queste cose. Sì, non, come dire, non passivi anche. Non passivi, forse. Bisogna insomma... Perché quando si affida la propria vita, quella dei propri cari, a un medico comunque ci si affida totalmente, si ha anche un po' timore a criticare o a... Bisogna dirsi le cose e imparare che sia un terreno di sana comunicazione, non di scontro all'arma bianca. Anche i medici non sono perfetti, spesso ripeto che la medicina non è una scienza esatta, no, purtroppo, perché... E l'empatia e la comunicazione è fondamentale, da tutte e due le parti. Abbiamo detto che tu sei un insegnante appunto di chimica e biologia al liceo, interpreti un po' te stesso in questo romanzo e c'è una cosa molto bella che a un certo punto tu scrivi a proposito dell'insegnamento. A cosa serve un insegnante? A riempire un registro, adesso elettronico? A scrivere la formula dell'etanolo alla lavagna? O non dovrebbe rimanere per tutta la vita un esempio? E di che cosa? Di una persona che qualcosa sa, come minimo. Un tizio che mostra di usare quel poco che conosce. Uno che con quel poco che conosce cambia lievissimamente il mondo. È un'immagine meravigliosa dell'insegnante. È ancora così. Ci sono ancora insegnanti che hanno voglia di essere un modello. Ma io credo che ce ne sono, debbano esserci, che insomma è lì proprio il discrimine, no? Se tu lo devi fare non perché stai ballando, no? Non perché lo stai recitando, no? Lo devi fare perché tu devi avere coscienza che hai capito delle cose, che hai imparato storia e serve a capire i conflitti di oggi, che hai fatto chimica e serve per dire questa etichetta è piena di schifezze, no? Se questo invece diventa un esercizio sterile, cioè che non ha una ricaduta, allora non stai prendendo uno stipendio che è legittimo, ma non stai insegnando è un'altra cosa, un luogo in cui ti sei sporcato le mani, ti sei fatto male e dici agli altri guardate mi sono sporcato le mani, ci siamo fatti male, ed è una trasmissione in realtà non solo di voti, è una trasmissione di esperienze, di umanità, insomma la passione di Fulvio Hervas per l'insegnamento la sentite proprio dalle sue parole come quella per la scrittura del resto. Grazie allora Fulvio Hervas per questo libro Tu non tacere, pubblicato dalla Marcos & Marcos. Ora una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. E ora parliamo di Björn Larsson, scrittore svedese, pubblicato in Italia da Iperborea, che è quella casa editrice specializzata proprio in autori del Nord Europa. Larsson è un appassionato di navigazione, passa molto del suo tempo in barca a vela e alcuni dei suoi romanzi hanno proprio a che fare con avventure in mare. qualche titolo fra i più noti. Allora, la vera storia del pirata Long John Silver, in cui appunto raccontava la storia del pirata che era stato creato da Stevenson nell'Isola del Tesoro. Poi ha fatto anche una sorta di sequel, L'ultima avventura del pirata Long John Silver. Poi ancora Larson ha scritto I poeti morti non scrivono gialli e Il cerchio celtico. Ma noi oggi parliamo di Diario di bordo di uno scrittore, pubblicato sempre da Iperborea a luglio 2014. È un omaggio proprio dichiarato ai lettori italiani. Larson parla perfettamente la nostra lingua. Nel libro l'autore svedese cerca di rispondere ad alcune domande: perché si scrive, come nasce un romanzo, ma soprattutto come si crea quel legame speciale fra uno scrittore e i suoi lettori. E allora perché questo titolo, Diario di bordo di uno scrittore, per un libro che parla appunto di scrittura e lettori? Scrivere è un po' come navigare? Sentiamo Bjørn Larson intervistato da Adriano Palazzolo. Ma in parte è stata così per me, perché ho scritto molto sulla barca, ho scritto almeno 5 delle 8 libri sulla barca più o meno. Però è anche un piccolo segno ai miei lettori che vedono un po' in me il navigatore scrittore. Tu hai vissuto a lungo su una barca e adesso vivi in un paese di mare. Come mai questa scelta? È il mare che ti dà l'ispirazione? No, non è necessariamente l'ispirazione, diciamo, per scrivere, però adesso vivo anche adesso part time, diciamo, sulla barca, anche d'inverno, però molto mi piace. Mi scrivo meglio, penso, lì, perché non ci sono altre tentazioni, soprattutto in inverno non c'è nessuno, ce ne sono i gabbiani e qualche barca, diciamo, il resto è a terra. Però la mattina, quando dormo sulla barca, non parlo con nessuno la mattina, e dunque ho il cervello fresco, diciamo, per scrivere, e qualche libro scelto soltanto per quello romanzo lì, forse. Tu hai rilanciato un po' la letteratura di mare con le tue storie di avventura. Perché questo tipo di avventure? Cos'è che ti interessa? Ma diciamo che non ho mai pensato ai miei romanzi come romanzi d'avventura. Ho scritto i romanzi così, più o meno. Ovviamente Long John Silver sembra un romanzo d'avventura, anche il cerchio celtico, però Il segreto di Inga non lo è, L'occhio del male non lo è neanche, Otto personaggi ancora meno. E dunque io preferisco dire che io voglio trovare una forma, un genere per ogni tema, perché non si può scrivere un libro sull'amore della stessa maniera che si scrive sull'identità o sulla libertà. E i miei libri sono molto diversi per questo. Dunque non è soltanto l'avventura, però è anche vero che la lettura, anche la scrittura per me, deve essere in un certo senso un'avventura. Nel senso che se uno parte all'avventura c'è il rischio di ritornare diverso. E questo sarebbe un po' l'ideale di un libro per un lettore mio, che lui o lei ritorna diverso dopo la lettura, e anche che io sono un po' diverso dopo la scrittura del romanzo. Ecco, tu ti senti diverso rispetto a quando hai cominciato a scrivere? Sì, assolutamente, però è difficilissimo, diciamo, sapere come uno era all'epoca, diciamo. Però so che all'epoca, quando aveva 20-25 anni, viveva a Parigi, aveva il sogno di fare lo scrittore, più il sogno di fare lo scrittore, di vivere come scrittore, che scrivere. Perché dopo mi sono reso conto che è un gran lavoro, bisogna anni per ogni romanzo, ricerche, riscrivere 20 volte forse una pagina. Questo all'epoca non lo pensavo, e dunque sì, c'è stata una evoluzione, diciamo, verso il realismo. Pensavi più ad una vita bohemienne? Sì, assolutamente, ho vissuto così. La cosa buffa in un certo senso è che avevo letto Hemingway, questo è Parigi, una festa mobile, che è un bel, diciamo, una bella macchina per fare sognare uno che vuole scrivere, e sono andato a Parigi con questa idea lì, stare a scrivere nei caffè, eccetera. Però la cosa buffa è che sono diventato scrittore alla fine. Quando si parla di scrittori svedesi si pensa subito ai gialli. È davvero così in Svezia o uno stereotipo? Non soltanto, perché se uno entra in una libreria oggi c'è 50% di gialli e 50% di romanzi in generale. Dunque è diventato anche una moda. Quando abbiamo avuto Björn Borg, il tennisman che ha vinto tutto, c'è un sacco di giovani che si metteva a scrivere, a fare tennis. Adesso è un po' la stessa cosa con il giallo. Però per il resto è un fatto di marketing o di mercato, diciamo, che all'estero è diventata come Ikea, è diventata come H&M, diciamo un'immagine di qualcosa che si può vendere. Tu sei svedese ma parli un italiano perfetto. Come l'hai imparato? Beh, l'ho imparato da solo, ho iniziato 12 anni fa, ma non parlo perfettamente, questo è un altro discorso, però... Quasi perfetto. No, per esempio il congiuntivo non so fare bene, però ho iniziato 12-13 anni fa, con tutti questi inviti in Italia, ero frustrato, mi dava un fastidio enorme, non potevo parlare con i miei lettori, neanche con l'editore, non potevo, sì, in inglese ovviamente, però non con i lettori, non potevo leggere un romanzo, non potevo leggere un giornale. Non aveva senso, diciamo, non poteva conoscere l'Italia e dunque voleva provare e ho messo 2 anni, ho messo 3 o 4 ore alla settimana per impararlo, dunque ho fatto un gran sforzo all'inizio, però devo dire anche che è un piacere per me imparare una lingua. Qual è l'idea che gli svedesi hanno dell'Italia? E questa idea coincide con la tua o tu te ne sei fatta un'altra? Io mi sono fatto un'altra, perché diciamo, bisogna dire che l'Italia non è presente al mondo e questo vale anche per la Svezia, perché c'è questa idea del modello svedese, diciamo, che tutto un paese civile, che tutto funziona bene, non è neanche vero. Prima del giallo c'è stata un'immagine troppo positiva della Svezia, adesso forse troppo negativo. Vale la stessa cosa per l'Italia in Svezia. Dunque è stata, diciamo, l'Italia ha una bella reputazione per una certa arte di vivere. Toscana, per esempio, è un mito in Svezia per il cibo, per il vino, eccetera. Ci sono le spiagge, eccetera. Però i problemi reali dell'Italia non si conosce per niente. E gli svedesi che idea hanno? Beh, io penso che l'Italia in Svezia è un paese di turismo potenziale, con una bella reputazione per vivere bene, eccetera, eccetera. Però la politica, per esempio, anni fa ho ricevuto una chiamata di un giornalista di Corriere della Sera che mi ha chiesto cosa pensavo io del fatto che D'Alema aveva letto il mio romanzo e che aveva piaciuto a lui. E io ho chiesto: D'Alema chi è? Perché D'Alema all'epoca si cambiava premier in Italia come Camici, dunque dopo c'è stata Berlusconi e si è parlata dell'Italia, non per capire bene l'Italia, però per parlare di Berlusconi. È stata un po' più quando c'è stata Ibrahimovic, perché lui ovviamente, dunque un po' di interesse per l'Italia, però la letteratura italiana, l'arte, c'è stata Benigni un po' quando ha vinto l'Oscar. C'è stata, forse Calvino è tradotto, Elsa Morante esiste in Svezia, un po' a Manite, però sono isole di Italia che sono un po' presenti, niente di più. Tu poco fa hai citato la letteratura italiana, quali sono i tuoi punti di riferimento? Non ho tante, perché adesso sto leggendo un po' di tutto perché sono curioso di sapere che cosa è questo. Dunque ho letto, diciamo, i classici moderni, Morante, Moravia, Pavese, Buzzati, Calvino, ho letto tutto questo, anche Vincenzo Consolo, ho letto Marcellina Dacia Maraini, che mi piace molto, eccetera, eccetera, però non ho un favorito. Bisogna anche dire che forse avevo iniziato un po' troppo presto, senza bene parlare l'italiano ancora, quando ho letto Calvino, per esempio, bisogna rileggerlo. Hai trovato dell'ispirazione nella letteratura italiana? Beh, io leggo tanto, voglio dire, se io scrivo un romanzo su un tema, io cerco di leggere tutti i romanzi che io posso trovare intorno a questo tema lì, e dunque è ovvio che questo mi influisce, però non so esattamente da dove viene, diciamo, e quali sono gli elementi che sono veramente presenti e dove vengono. Non mi importa, infatti. C'è già un prossimo lavoro a cui stai lavorando? 2 o 3 o 4 o 5, nel senso che i progetti ci sono. E mi rendo conto adesso, 60 anni, e mi rendo conto adesso che non posso realizzare tutto questo e devo scegliere più che prima. Per adesso sto lavorando su 2 romanzi, forse l'anno prossimo potrò finire uno di questo almeno, però ci sono anche altre cose. Ecco, tu hai scritto anche in francese, prima o poi scriverai anche in italiano? Ma spero un giorno, forse potrò fare qualcosa anche in italiano, mi piacerebbe. E il sogno, perché questa è un'altra idea mia, sarebbe di scrivere un romanzo di uno svedese che impara allo stesso tempo l'italiano, dunque un romanzo scritto in 2 lingue, mai visto, per pochi lettori, diciamo, però sarebbe divertente. E questo era Bjørn Larsson sul suo libro Diario di bordo di uno scrittore, pubblicato da Iperborea. L'intervista era di Adriano Palazzolo. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Pietro Lacorte. Vi ricordo che potete trovare sempre i podcast del Cacciatore di Libri su radio24.it. Mi trovate su Facebook come il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e naturalmente anche su Twitter. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.